Guarda, proprio ora ho scritto Cronaca di un'ordinaria disperazione. Ho intitolato proprio questo, perché meglio che vi leggo. Proprio pochi minuti fa c'è un ragazzo di Tunisia ammalato di grave crisi epilettico, quasi ogni giorno una o due volte preda, perde la coscienza e cade. Però ovunque si trova, noi compagni cerchiamo di urlare, sbattere cancelli per chiamare il medico, l'operatore. I primi a correre sono sempre i poliziotti sguainati, i propri manganelli, perché non si fidano mai se fosse una messa in scena oppure la cruda realtà di un malato. Poi corrono gli operatori insieme a volte con l'infermiera e quando è presente viene anche il medico. Allora, pochi istanti fa il ragazzo che si cinque volte al giorno ad alta voce la sua preghiera coranica, poco ha fatto la corda, cioè senza dire nulla a nessuno ha cercato di creare una corda con le lenzuole di carta plastificata, ma bagnandoli ci si può ricavare una corda abbastanza forte da poter togliersi la vita. Ecco, è successo proprio pochi istanti fa ed è stato salvato un estremis dagli compagni di cella. Ieri un altro ragazzo, per le sue giuste proteste o richieste, è stato calmato dagli amici e compagni di non tagliarsi le vene. Queste disperazioni non hanno nessun senso per gli operatori e funzionari, ma che ne sanno loro in fondo del nostro animo, con quanti fallimenti, delusioni e fantasmi lottiamo in silenzio, e certe volte quanto diventa insopportabile. Allora nel silenzio cerchiamo di farla finita una volta per sempre. Anche scorsa volta, quando ero trattenuto per 90 giorni, avevo visto di tutti i colori. Ricordo che c'era uno dei pochissimi pakistani della fede cattolica e con gravi problemi di stabilità mentale, ed è stato portato qui e anche lui ha fatto la corda. Infine, per la sua salvaguardia era stata isolata da tutti in un camerone da solo e spesso abbandonato, perché era dichiarata incompatibile a condividere in camerone per i suoi gravi problemi mentali. Quella volta lo salvai proprio io e chiamai ad squarciagola gli agenti. Per essere esatto, si tratta di Hussein Mossad dal Pakistan. Questi sono solo alcuni esempi di casi successi in questo luogo di espiazione. Per essere solo un extracomunitario, un extracomunitario senza il permesso di soggiorno. Ci sono delle persone cui non faccio nome e cognome, che non devono proprio stare in questo centro per le loro gravi patologie, eppure sono qui. Ad espiare un'infamante sentenza invece di essere in un centro clinico o in cura negli ospedali. Molti hanno problemi ad esprimersi, non hanno una padronanza della lingua italiana ed è spesso sono incompresi ed è difficile capirli o farsi capire. Io mi chiedo perché queste persecuzioni verso i poveri, i deboli, gli ultimi. Tanto in questo CIE non sono i ricchi o i benestanti, ci sono soltanto gli indifesi e colpiti pure dal sistema con il provvedimento dell'espulsione, che parte dalla prima udienza entro 48 ore, che difficilmente si ottiene la propria libertà e quasi sempre viene convalidata per altri 30 giorni fino al prossimo udienza, in speranza di poter ottenere la propria libertà nella seconda, altrimenti ci si rinnova per via altri 30 giorni per arrivare al 90esimo. Al 90esimo, se sei abbastanza fortunato, allora riotterrai la tua libertà con un altro provvedimento d'espulsione e rivedrai in libertà finché la fortuna ti assiste e affinché non ti ribecca, perché come un cane che si morde la coda ti ritroverai in questo lager di nuovo a soffrire e a patire ed sperare di poter almeno ottenere un documento o un permesso di soggiorno, oppure lista cerchi di richiedere l'asilo politico o la protezione umanitaria oppure la protezione internazionale, raccontandoli la tua storia ad un commissione che avranno il tuo destino nelle loro mani. Nel frattempo tu ti fai gli mesi di detenzione senza perderne la speranza, e chi non ce la fa cerca alternativi diversi, come questo compagno che ha cercato di togliersi la vita per farla finita una volta per sempre. Ecco, cari amici, anche questo è CIE, centro di sofferenza gratuite, e per alcuni o molti fonti di grossi guadagni, giri di soldi o vere business umani. Ecco qua, questo ha scritto poco fa. Allora, io penso che le tue parole sono state chiarissime, nel senso hai descritto, a partire dalle giornate, a quello che è il sistema di deportazione, di espulsione, di internamento, ma anche quelli che sono i tentativi di resistervi. Cioè, capisci un po', fai 90 giorni, dopo 6 mesi ti riportano qui. Non è una vita facile per l'essa comunitario, oppure senza documenti. Quale colpa abbiamo? E io mi chiedo, quale colpa abbiamo? È un sistema sbagliato, siamo sbagliati noi. Dove c'è questo errore? E soffriamo, le sbarre, ancora sbarre, ci portano gente da carcere direttamente qui, portamenti coatti, come ti posso dire, portano la gente, vengono in 20 a prenderti mattina presto. Come si fa? Tu vivi nella speranza di poter riavere la tua libertà, ma è una dura lotta. E come poco fa ho scritto, vedi, farsi la corda, lo sai che vuol dire? Toccare il fondo. E non tutti ce la fanno, capito? Chi non ce la fa cerca diverso, e il diverso vuol dire non ce l'ha fatta, uno che prega, uno che, c'hai capito? Viviamo di speranza, eppure non cambia, cerchiamo di migliorare, eppure eccoci qua. Bene, la cosa che ti chiedo è adesso il ragazzo come sta, perché solo grazie all'appoggio di tutti quanti che erano lì intorno, insomma, sì, è lui riuscito a cavarsi. Un malato epiletico che ha cercato, è venuta all'infermiera perché il medico non era, poi sono corsi i poliziotti, come ho descritto, i poliziotti, poi gli è stata caricata, è stata portata nel centro infermeria, diciamo che si è salvata. Ma è cronaca di una ordinaria distruzione, proprio all'ultimo, cioè, capito? Allora, ascolta, le tue parole. Alcune stanze non hanno nemmeno la TV. Cioè, ora, per cambiare l'argomento da uno che si tenta di tagliare oppure di togliersi la vita, qui in alcuni camerotti non ci sono la TV. Non c'è, noi siamo fuori dal mondo, tagliati completamente, non sappiamo che succede fuori, non c'è un notiziario, non c'è nulla. Ma come si fa? Come si fa? Dimmi. No, appunto, nel senso, quello che leggevi prima è una descrizione esatta. Spesso chi ci ascolta non conosce quello che è il quotidiano lì dentro, e tu l'hai descritto piuttosto bene. Volevo appunto chiederti da che tempi è scandita una giornata dentro il CIE di Ponte Galeria, ma penso che sia indicativo anche il fatto che non c'è neanche uno strumento di informazione, non è possibile neanche leggere un giornale, insomma, sapere anche no, altri. No, non abbiamo giornale. Non è che ci in carcere almeno tu hai una sentenza, ti danno tutti i tuoi diritti, hai una biblioteca bella fornita, hai tutte le corsi, scuole, hai di tutto, la hobby, puoi impararti un lavoro, insomma, ce l'hai abbastanza anni per poter migliorare, imparare, insomma, puoi maturare. Invece qui dentro sono giorni morti, rubati, scippati, finati. C'è noi la colpa di essere senza documenti, di essere identificati, che siamo alieni? Boh, non lo so. Allora, io quel che posso ogni giorno cercherò di raccontarvi qualcosa che succede qua, perché è l'unico modo che voi sappiate e il mondo sappia, in questo luogo non ci si diverte. in questo luogo ci si soffre e c'è tanta sofferenza. E il 5 settembre anche noi ci faremo sentire. È importantissimo per noi, perché sappi una cosa, e penso che insomma sia chiaro anche a chi ci ascolta, perché poi si tratta di compagni e compagne che cercano di partecipare a questi presidi, e diciamolo chiaramente, l'unica cosa che riempie il cuore nel venire là davanti è quando si incrociano le urla di rabbia dentro e fuori quelle mura e si uniscono queste cose, è bellissimo questo. Sappiamo che gente, ci sono gente fuori, compagni e compagne che ci tengono a noi, e questa è una cosa bella, è bellissima. Anche se noi soffriamo, sappiamo che qualcuno ci lotta per noi.